si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Uptown funky up, uptown funky up, 'cause uptown funk don't give it to you, 'cause uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Eccoci qua, buongiorno cari ascoltatori, buona domenica, ben ritrovati da Alessio Maurizi con Si può fare insieme fino alle 10, 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta come ogni sabato, domenica mattina, ma come sempre su Radio 24. Naturalmente oggi non c'è Carlino Gabardini perché è malato, è stato colto da un virus influenzale. E noi andiamo avanti lo stesso, naturalmente vogliamo giocare con voi come ogni domenica cercando un personaggio della settimana. Cominciamo tra poco il riepilogo delle notizie a caccia anche di un personaggio che è legato ad una notizia di questa settimana. E insomma, a volte abbiamo cercato personaggi di nicchia, magari personaggi minori. Questa volta il primo indizio che vi voglio dare è questo: è un personaggio da copertina, da copertina. 800 24 00 24, il primo di voi che indovina vince anche oggi due biglietti e il catalogo della prestigiosa mostra di Gauguin al Museo Mudec di Milano. Beh, insomma, adesso tra poco inizieremo con il riepilogo di questa settimana, come sempre a caccia di buone notizie, ma sfrucugliando un po' tra le notizie di tutta la settimana. Non si può non dire che la più importante buona notizia di ieri, di questa settimana, ma forse del 2015, è insomma questo accordo sul clima a Parigi, accordo raggiunto tra i 195 stati, celebrato con le lacrime del ministro degli esteri Fabius, ne parleremo, ministro degli esteri francese, tutti contenti. Ci sono vari dubbi che serpeggiano, naturalmente, perché c'è il tema dei controlli, dell'applicazione di quello che è stato stabilito, addirittura in modo più ambizioso, non due gradi meno di riscaldamento, cioè non contenere in due gradi il riscaldamento del pianeta nei prossimi anni, ma in un grado e mezzo. Però insomma c'è tutta la questione dei controlli, dell'applicazione e dei finanziamenti ai paesi in via di sviluppo per la riconversione tecnologica, e affinché questo accordo diventi realtà. Comunque, insomma, c'è un modo di parlarne sui giornali e nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. 800 24 00 24, anche di questo, se volete, possiamo parlare, ma il tema italiano della settimana è stato le banche. La questione delle banche è una questione molto delicata, è una questione che ormai ha delle regole europee, e l'atteggiamento che ha avuto il governo è stato un atteggiamento che ha permesso di salvare quattro banche che altrimenti avrebbero chiuso quel lunedì mattina, i posti di lavoro e i depositi dei correntisti. Queste persone alle quali va tutta la nostra vicinanza non sono persone correntisti come tutti gli altri, hanno acquistato dei titoli particolari, hanno acquistato delle obbligazioni particolari, e noi cercheremo di trovare una soluzione. Ecco qua, fin qua le parole del Presidente del Consiglio Renzi, in attesa appunto di un emendamento, probabilmente alla legge di stabilità, che possa risarcire almeno un terzo dei risparmiatori, circa 100.000 persone, di questi 300 milioni di risparmi che sono andati in fumo in queste quattro banche. Fin qua la versione del governo. Hai sentito Renzi che dice: questo intervento criticato, per quanto criticato, è servito a salvare tutti gli altri correntisti di queste banche, nonché i dipendenti delle quattro banche. La pensa diversamente l'opposizione. Sentiamo Lega e Movimento 5 Stelle. Facciamo una puntata per capire i super pagati della Banca d'Italia che cacchio stanno controllando. Quindi i signori della Banca d'Italia, anche perché prendono stipendi della Madonna, se non vigilano, sono lì a vigilare. Quindi il governatore Visco dovrebbe in qualche modo rispondere a quello che è accaduto. Di tasca sua. E quel Belpietro è diventata una repubblica bancaria, fondata sulle banche, non sul lavoro. I diritti delle banche sono maggiori dei diritti delle persone. Il Papa anche lo disse, salvano le banche con i soldi dei cittadini. Sicuramente il nostro governo non ha fatto favoritismo. È ovvio che io conosco mio padre, so chi è, so che è una persona per bene. È finito un po' all'attenzione costante delle cronache, non tanto per quello che fa lui, ma perché è mio padre. Where's the money? The money is gone. Where's the fucking money? Benvenuti nel terzo millennio, diceva oggi la tele. Presentatrici dal sorriso crudele elencavano le cose da avere per essere parte di una globale torre di Babele. Dal mio bilocale vedo muri e disegni illegali, 2 metri più su cartelli pubblicitari di vari accessori per definire chi sei. Computer, motori, telefonini, bikini e Megan Gale. Sorridi bambina, il futuro è già qua, sicuro l'anno 21 la lira scomparirà, una banconota unirà una grande comunità che spende, c'è mobilità in occidente, la libertà si vende, i ricchi sempre più ricchi, un esempio per molti. E buongiorno al presidente di Banca Etica, Ugo Biggeri. Buongiorno, buongiorno. Buona domenica. Ci salvi lei, Biggeri, ci salvi lei. No. Mica tanto facile. Lo so. Salva banche. Beh, noi ci siamo appellati a chi addirittura nel suo nome, insomma, ma da tempo ha nel suo DNA proprio questa missione della trasparenza. Una banca, insomma, c'è anche una pubblicità che dice la mia banca è differente. Voi siete, per certi aspetti, proprio volutamente molto differenti dalle altre banche. Intanto però le voglio fare una domanda per spiegare, anche per capire, per aiutarci a capire. Questi soldi che sono spariti, non si sente sempre dire evaporati i risparmi, erano interessi nominali, questi 300 milioni sono spariti, non sono da nessuna parte, o qualcuno se li ha messi in tasca? Questa potrebbe già essere una curiosità, no? Ma sicuramente da qualche parte sono finiti, non so se li sono messi in tasca, questo sarà qualcun altro che dovrà stabilirlo, però le banche i soldi li hanno per prestarli, per farli girare. Diciamo che facendoli girare a un certo punto sono girati in modo sbagliato, quindi si parla per alcune di queste banche anche di non solo di aver perso dei soldi facendo credito, che è l'attività tutto sommato più sensata che le banche devono fare, ma di aver fatto crediti diciamo quasi sapendo in partenza che i soldi non sarebbero tornati indietro. Ecco, questo sicuramente per motivi non diciamo per motivi, come dire, non confessabili, o semplicemente per motivi per quali motivi, ecco, ce lo dica lei, viene fatto questo credito a persone che non possono si vede che non possono poi restituire questi soldi, o il credito non è il motivo per cui viene fatto il prestito? Ma ecco, sì, purtroppo qui c'è una rischio che in tutte le banche, e di fatto è l'attività a cui come amministratori di banche e come vigilanza siamo chiamati di più a dare conto, c'è un rischio di dare soldi non perché c'è un progetto economico, ma perché si fa un favore a qualcuno. A qualcuno, all'amico di qualcuno. All'amico, addirittura anche alcune di queste banche avevano proprio una modalità di dare prestiti ai consiglieri di amministrazione senza troppe diciamo garanzie da dover mettere sul piatto, quindi sicuramente c'è un problema di cattiva gestione del credito. Senta, ma aveva un'alternativa il governo rispetto al salvabanche, cioè si poteva lasciar fallire queste banche? Ma guardi, io non so se si potevano lasciar fallire, di fatto si sono fatte fallire, però, perché quando il capitale viene azzerato e lo pagano i cittadini e le altre banche che invece si sono comportate in modo decente, noi oggi abbiamo 4 banche tra virgolette sanate, ma probabilmente è come se ci fosse stato, perché qualcuno ha pagato parecchio. Però questo intervento quindi il criterio è se sarebbe stato peggiore o migliore. La verità è che bisognava intervenire molto molto prima, ecco, perché intervenendo molto molto prima probabilmente non parlavamo di 3 miliardi oltre 3 miliardi e mezzo, ma parlavamo di cifre molto più ragionevoli. Ecco, quindi diciamo intervenire prima si sarebbe dovuto, potuto fare, adesso poi parleremo anche di come, però arrivati a questo punto mi sembra di capire, è vero quello che dice Renzi, che almeno l'intervento del governo è servito a salvare i correntisti di quelle stesse banche, per esempio, e i dipendenti, questo lei è d'accordo, nonostante poi delle critiche da fare? Non guardi, se intervenire prima del che entri in vigore il bail-in, sicuramente, però intervenire un mese prima, guardi che è veramente un po' difficile dire che è stato fatto un intervento oculato. I tempi fanno la differenza, perché intervenendo a maggiore distanza dall'entrata in vigore del bail-in si poteva utilizzare anche i fondi tutela interbancari classici, come già si sono utilizzati per altri fallimenti, penso alla Tercas non più di un paio di anni fa, quindi insomma, secondo me il fattore tempo, ahimè, è il fattore determinante di questa storia. Poi dopo che all'ultimo minuto uno cerca di fare il meno peggio, sono d'accordo. Va bene, resti con noi, facciamo una piccola pausa per il traffico. 800 24 00 24, ascoltatori, tra poco anche in vostra compagnia, torniamo tra un secondo. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati, siamo in compagnia del presidente di Banca Etica, Ugo Biggeri. Senta, è vero che voi, che siete una banca virtuosa, una banca piccola, ma che fa proprio, diciamo, dell'etica, oltre ad averla messo nel nome, anche proprio la propria missione, vi troverete a finanziare questo fondo, al quale tra l'altro non potrete mai attingere? E questa è una cosa un po' curiosa, ad esempio, del decreto salvabanca. Noi siamo una delle banche che ha tassi di sofferenza più bassi nel sistema bancario, siamo 3-4 volte inferiori al resto delle banche come crediti, diciamo così, deteriorati. Ecco, tasso di sofferenza vuol dire che non avete il problema che hanno molte banche di avere quasi il 10% di crediti. Esatto, noi che pure è cresciuto in questi anni della crisi siamo poco sopra il 2, insomma, come tasso di sofferenza. Questo però dovrete partecipare al salvataggio di quelle altre banche. Di chi aveva il 30 o il 40% di tasso di sofferenza, sì. La cosa forse un pochino più curiosa effettivamente però è che non solo dobbiamo partecipare, quindi sì, come sempre essere virtuosi non paga, sembrerebbe che non paghi, ma anche che in futuro non potremo aderire a questo tipo di fondo, perché è un fondo per le banche sistemiche e insomma per ora ancora abbiamo da correre un po' prima di diventare una banca sistemica, quindi è un po' come se oggi uno facesse un'assicurazione per il motorino, però poi l'assicurazione in caso di incidente paga soltanto le grandi macchine, ecco, cioè c'è un qualcosa. È un qualcosa detta che così è un'assurdità totale, e invece è quello. Quanto dovete pagare voi questo Ma fondo? Noi abbiamo già pagato 390.000 euro, ne pagheremo, tra l'altro non si riesce a capire quanto, ma pare intorno, potremmo arrivare intorno al milione il prossimo anno. Tenga presente che anche perché avevamo fatto una serie di investimenti, noi prevedevamo degli utili intorno al milione, il milione e mezzo. Quindi per voi vi bruciate praticamente gli utili? Quasi. No, non ce li bruciamo, ma insomma. No, adesso non voglio dare un messaggio non tranquillizzante ai vostri clienti. Però ma insomma, ecco, sono cifre importanti, comparabili con i nostri utili, di qualche multiplo inferiore, però comparabili con i nostri utili. Insomma, penalizzare una banca che ha tassi di sofferenza molto più bassi delle altre banche, quindi praticamente a monte, grazie allo statuto che si è data, risolve il problema che invece si è venuto a creare, per esempio, in queste quattro banche. Capite che è un paradosso assoluto. Voi che nascete proprio con questa, cioè cercando di dare un'offerta diversa rispetto alla finanza speculativa e la finanza tossica, no? È così? In che modo voi fate questo? Ma guardi, noi sì, è così sicuramente, perché la banca si pone una domanda a cui dare una risposta, ed è far sapere ai propri soci, clienti e correntisti come usa i soldi. Quindi noi addirittura siamo l'unica banca in Italia, siamo stati la prima banca al mondo a mettere tutti i finanziamenti che eroghiamo alle persone giuridiche sul nostro sito web, che se vogliamo è anche un po' una mossa provocatoria. Questo però ci consente di dire che non è che facciamo soltanto una dichiarazione di principio, chiunque può andare a vedere se questi finanziamenti sono finanziamenti utili alla collettività oppure no. Abbiamo una prevalenza di finanziamenti nel mondo del no profit, anche quando interveniamo nel mondo profit facciamo molta attenzione all'impatto sociale, sociale ed ambientale, quindi diciamo in questo sicuramente ci proviamo. Abbiamo anche altre regole che diciamo forse sono un pochino più da addetti ai lavori, però forse in questo caso le capiamo meglio. C'è un limite. Proviamoci. Tra lo stipendio della persona a livello più basso dentro, sì, la banca e il top management, che non può essere più alto di 1 a 6. Noi siamo 1 a 5, beh, vuol dire che sostanzialmente il nostro direttore generale, il presidente e la dirigenza della banca ha degli stipendi che sono assolutamente dignitosi. Perché uno dei problemi di queste banche sono anche questi. Molto, molto più bassi. Sono anche questi, cioè i super stipendi, anche dei super bonus che a volte spingono, certo, questi manager a drogare le prestazioni delle banche. Una delle cose che è un po' curiosa è che non conosco tutte e quattro le banche, ma so per certo che un paio di queste banche del decreto salva banche c'erano stipendi netti intorno ai 500-600 mila euro l'anno e che non sono cambiati neanche negli anni della crisi più nera. Questo potrebbe poi spingere queste banche poi naturalmente a fare degli investimenti anche un po' più spericolati per tenere dietro anche alla necessità di pagare questi stipendi. Questa è un'ipotesi, no? Sì, diciamo che in generale si slega questi stipendi molto, molto alti alla fine drogano un po' secondo me drogano il rapporto veramente con tutto il sistema bancario, perché si crea una categoria di super pagati che poi risponde solo in parte di quello che sono gli andamenti reali della banca. Senta, voglio farle... che faccia solo che bene, ecco, stare attenti anche a questi aspetti. Voglio farle sentire di nuovo un attimo questo audio, il ministro Maria Elena Boschi, durante la presentazione del libro di Bruno Vespa, che parla del padre che è coinvolto in quanto era vicepresidente di Banca Etruria. Sentiamo un attimo. Sicuramente il nostro governo non ha fatto favoritismo. È ovvio che io conosco mio padre, so chi è, so che è una persona per bene. È finito un po' all'attenzione costante delle cronache, non tanto per quello che fa lui, ma perché è mio padre. Al di là della vicenda, poi sarà da chiarire, sul padre di Maria Elena Boschi, vicepresidente di questa banca, ma secondo lei c'è stata una vera e propria truffa, per esempio nel caso di Banca Etruria, ma in queste quattro banche, ai danni dei clienti, o sono stati venduti dei prodotti in maniera un po' leggera e consapevolmente? Quando una banca conosce e il consiglio di amministrazione li conosce, ora anche se c'è stato poco nel consiglio di amministrazione, però i crediti deteriorati sono approvati dai consigli di amministrazione, i ratio patrimoniali sono quello che deve fare il consiglio di amministrazione, eppure tutta la politica dei controlli di una banca e alla fine risponde al consiglio di amministrazione. Quindi un consigliere di amministrazione sa quello che succede da questo punto di vista ed è poi dal consiglio di amministrazione che passano, che si emettono ad esempio i titoli subordinati piuttosto che le offerte che in questi giorni appunto si sono dimostrate disastrose per i clienti. Quindi il confine è sottile. È chiaro che uno lei può dire ma mi sono fidato del direttore generale, però la responsabilità è del consiglio di amministrazione, perché queste cose arrivano in consiglio o almeno è anche del consiglio di amministrazione. Io so che quando le banche, in periodi in cui i tassi delle qui c'è un tema diciamo molto molto però dobbiamo chiudere Biggeri, dobbiamo sì, chiudere sì, però quando le banche offrono, sì, hanno offerto queste banche subordinati al 7%, quando il resto delle banche le offrivano al 2%, chi li ha messi sul campo sapeva sicuramente. Va bene, grazie mille Biggeri di Banca Etica, buona domenica, grazie per essere stato con noi. 800 24 00 24, torniamo dopo il GR. In questi giorni di festa, regalatevi tutta l'informazione, l'intrattenimento e la passione di Radio 24. Buon ascolto e buon Natale. Si può fare, si può fare, si può fare. si può fare. Cronache da un paese migliore. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps, ready to race to you. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e riprendiamo con Si può fare con il riepilogo delle notizie di questa settimana, sempre a caccia di buone notizie. Martedì, beh, insomma, si è inaugurato, è iniziato ufficialmente il giubileo straordinario che era stato indetto dal Papa a marzo scorso ed è iniziato ufficialmente quando il Papa ha aperto la cosiddetta Porta Santa. E questa la porta del Signore. Apritemi le porte della giustizia. Entrerò per ringraziare il Signore. Insomma, un giubileo iniziato così. Adesso sentiamo anche l'inizio della preghiera del Papa, un Angelus, subito dopo l'apertura della Porta Santa. Un giubileo tra le preoccupazioni per la sicurezza, naturalmente, come giusto che sia, in una città senza sindaco, commissariata. Un giubileo in questo momento sicuramente oscurato, ne abbiamo già parlato ma ne parleremo ancora tra poco, dalla grande conferenza sul clima di Parigi, altrimenti sarebbe stato sicuramente un evento anche di portata internazionale. Sentiamo ancora qualche parola di Papa Francesco. Attraversare la Porta Santa dunque ci faccia sentire partecipe di questo mistero d'amore, di tenerezza. Abbandoniamo ogni forma di paura e di timore, perché non si addice a chi è amato. Viviamo piuttosto la gioia dell'incontro con la grazia che tutto trasforma. E cominciamo però anche a sentire gli interventi degli ascoltatori. Abbiamo Andrea che chiama da Piacenza. Buongiorno Andrea. Buongiorno. Per che cosa chiamava Andrea? Chiamavo per il personaggio della settimana. Sì, sì, chi è? Secondo me è Angela Merkel. Mm-hmm. Per quale notizia? Perché è finita sulla copertina di Time come personaggio più influente dell'anno. Assolutamente, ed era in effetti un bel tranellone, Andrea, perché è proprio un personaggio da copertina, tanto che si è guadagnata una delle copertine più prestigiose, quelle con cui il settimanale americano Time alla fine dell'anno celebra la personalità dell'anno, questo 2015, proprio la cancelliera tedesca. Non era lei però a cui avevamo pensato, Andrea, grazie, ci hai dato l'occasione anche per ricordare questa notizia. Marta da Verona, buongiorno. Buongiorno. Prego. Il personaggio della settimana è, secondo me, è Donald Trump. Certo, il candidato alle primarie repubblicane. Per quale notizia? Beh, insomma, su Trump non mancano mai. Con l'Aquila, insomma. Mi è sembrato abbastanza ridicolo. Sì, beh, ridicolo per quello. Poi ci sono le polemiche sollevate dalle sue frasi sul fatto. Non è il caso di scherzare con certi animali, ecco. Tra l'altro. Marta, ci stava tutto anche Donald Trump, non era lui però il nostro personaggio, non era lui, era molto da copertina sicuramente, però non abbiamo pensato a lui. Angela da Torino, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Il personaggio secondo me è Pamela Anderson, per l'ultimo nudo credo di Playboy, che ormai non pubblicheranno più nudi integrali. Sì, o l'ultimo nudo proprio di Pamela Anderson. Vabbè, questi sono problemi suoi. No, è l'ultimo nudo di Playboy, credo. Sì, di Playboy, credo. Sì, sì, di cui poi si era parlato molto, il fatto che non pubblicherà più nudi probabilmente. E, insomma, chiaramente questa è una svolta epocale da un certo punto di vista. Beh, insomma, ci stava tutto il personaggio, Angela. Non era lei a cui avevamo pensato, non era Pamela Anderson, però. Grazie per averci chiamato e così, insomma, abbiamo fatto anche questo ripasso sul nudo, l'ultimo nudo di Playboy. Facciamo anche Rodolfo da Roma, buongiorno. Rodolfo da Roma, buongiorno, benvenuto. è caduta la linea, va bene. Allora andiamo avanti con le notizie, con il riepilogo di questa settimana. Beh, insomma, abbiamo detto, l'hai sentito anche nel giornale radio, adesso apertura di tutte le testate su questa notizia, insomma, l'accordo di ieri a Parigi. Addirittura meglio delle previsioni, meglio di quella che erano le attese, cioè non solo 2 gradi di contenimento dell'aumento delle temperature, perché bene ricordarlo, non stiamo parlando di diminuire, tornare indietro rispetto a quello che viene ritenuto essere il riscaldamento del pianeta, ma di contenere questo riscaldamento a non più di 2 gradi o addirittura 1,5 gradi. Sentiamo che cosa il ministro degli esteri francese Fabius, in quanto diciamo presidente di COP21, al momento dell'annuncio, le sue lacrime che hanno fatto il giro del mondo, lacrime di gioia ma forse anche di liberazione dopo giorni e giorni di trattative serrate. En cette circonstance probablement historique, mais qui ont agi et lutté sans pouvoir connaître ce jour. Insomma, questo è il momento appunto di celebrazione, di autocelebrazione di questo accordo. Ci sarà tempo per capire i contenuti veri di questo accordo, per valutare se la mancanza di sanzioni reali può vanificare, insomma, questo accordo. Molte ONG, oggi ho letto commenti, Greenpeace, WWF, insomma, gente che da anni si impegna su questo fronte, dicono che questo è un primo passo per migliorare la vita nel pianeta e per un futuro sostenibile. Ce ne sono molti altri da fare. Per esempio, piccoli passi come questo. In Germania è stata inaugurata da poco, la prima autostrada per le biciclette. Se ne era parlato tempo fa perché era un progetto che era stato lanciato proprio in Germania. Adesso ci sono i primi 20 chilometri che collegano Essen a Duisburg. È una strada larga 4 metri, circondata da alberi, per favorire lo scorrimento veloce dei pendolari in bicicletta che si muovono molto, moltissimo tra queste due città, quindi diciamo contribuendo a mantenere l'aria pulita e a non danneggiare il pianeta, ma anche la salute di quelle persone. Traffico, torniamo tra un attimo. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presenta Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua ancora con qualche telefonata. Abbiamo recuperato Rodolfo che chiama da Roma. Buongiorno Rodolfo. Buongiorno, come state? Bene, grazie. Lei? Bene, io vi ringrazio della vostra telefonata. Sì. Volevo soltanto essere molto molto breve. Ci dica tutto. Sul tema delle banche. Sì. Vorrei precisare che 2 affermazioni che ha fatto il governo non sono corrette. La prima affermazione è che hanno salvato i dipendenti delle banche. Non è vero, perché siccome le banche attuali saranno spaccate in 2, una buona diciamo e una cattiva, quella buona sarà messa sul mercato a disposizione di altre banche che compreranno non tutta la banca, ma solo alcune funzioni delle banche. Sì. E quindi in funzione di quelle parti che loro comprano, solo in funzione di quelle parti avranno bisogno del vecchio personale, dell'altro personale ovviamente non sapranno che farne. Per esempio back office e front office, il back office probabilmente avrà bisogno di personale, ma il front office sicuramente no. Va bene Rodolfo, staremo a vedere. Scusi Rodolfo, dobbiamo dare la linea spazio anche ad altri. Chiaro che quello che ha detto il governo è tutto da verificare. Sul momento sono stati salvati i posti di lavoro, probabilmente, però ha ragione anche lei. Bisogna vedere che fine faranno realmente queste banche, anche perché una delle proposte allo studio proprio del governo è diciamo inserire inserire delle holding che possano raggruppare molte di queste piccole banche, quindi ci sarà un processo di ristrutturazione, quindi alla lunga chi lo sa se i posti di lavoro verranno salvati davvero. Basta vedere quello che sta accadendo in altri grandi gruppi bancari che annunciano continuamente licenziamenti e perdite di posti di lavoro. D'altra parte questo per le banche è una tendenza di questi anni ineluttabile. A me mi spiace per chi lavora in banca, ma insomma con le nuove tecnologie sicuramente un po' di posti di lavoro nel sistema bancario stanno perdendo. Livio da Roma, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti quanti. Senta, ecco. Io volevo dire solamente una cosa, innanzitutto farle i complimenti per la trasmissione. Grazie, però Livio. Volevo dire questo, sono indignato in quanto io seguo tutte quante le vicende in televisione, nei vari dibattiti, i show televisivi. Sì. Allora, qui c'è solamente una cosa da fare, e la magistratura è responsabile perché non l'ha fatto fino adesso. Innanzitutto per bloccare tutti quanti i beni di queste persone implicate nell'affare. Perché? Perché questi soldi non sono volatizzati, sono andati da una banca e tramite complici sono andati in un'altra banca, oppure sono andati in Svizzera. Allora la magistratura, deve perché indagare. Questo è un fatto penale, veramente penale, che ha fatto ammazzare persone, bisogna che blocchi e confischi tutti i beni delle persone interessate, confiscare, non sequestrare. Sì, confiscare per poi verificare che non ci siano stati passaggi di denaro illecito. Livio, io l'ho chiesto al presidente di Banca Etica Biggeri, perché ogni volta che c'è un fallimento come questo o insomma si perdono i risparmi di centinaia di migliaia di risparmiatori, ci si domanda: ma questi soldi sono evaporati, sono interessi nominali, frutto di speculazioni, o sono soldi reali che poi sono finiti in tasca a qualcuno? E questa è una domanda a cui sicuramente anche la magistratura dovrebbe dare una risposta. Bruno da Riccione, buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa vuole intervenire? No, volevo prima di tutto rispondere al personaggio della settimana. Sì, chi è? Roberto Bolle. Perché? Perché è stato fotografato mentre abbracciava il suo fidanzato e dopo questa foto il suo fidanzato ha detto che l'aveva lasciato, insomma. Ok, insomma, non era lui il personaggio, anche se Roberto Bolle è un super personaggio da super copertina. A questo punto, grazie Bruno da Riccione anche a te per aver aggiunto una notizia al nostro riepilogo della settimana. Aggiungiamo un indizio, aggiungiamo questo indizio. Il nostro personaggio di questa settimana ha fatto una tripletta, pensateci, Allora, sentiamo un'altra voce di questa settimana, parliamo di elezioni amministrative nei grandi comuni, Roma, Milano, poi ci sarà anche Torino, altre città. A Milano c'è un fiorire di candidati, almeno sulla carta, soprattutto nel campo del centrosinistra: Beppe Sala, il vice sindaco Francesca Balzani, l'assessore Maiorino, Fiano, insomma la coda si sta allungando. Il centrodestra per ora ha lanciato forse Sallusti, senza grossa convinzione. A Roma c'è solo Marchini, praticamente già schierato, quando mancano pochi mesi al voto. Sentiamo l'annuncio di Gianroberto Casaleggio del Movimento 5 Stelle su come il movimento fondato da Beppe Grillo sceglierà il proprio candidato a Roma. Per Roma partiamo dal programma. Nei prossimi giorni metteremo online le prime parti del programma che sono state definite, e poi passeremo alla seconda fase, che è quella della scelta della lista e del candidato sindaco. Ballare, puoi ridere di gusto senza malignità, la gente se vuole sa essere feroce, sarcastica e cinica e senza pietà, questa cosa che niente più vale la pena di starci a pensare, che poi tanto a me non mi piace, io credo che invece il tempo è prezioso davvero un bel po', io quando ti guardo mi basta guardarti, è una bella notizia che porta allegria, non c'è un paragone, non è che un milione di altre notizie ti portano via, a forza di essere molto informato, so poco di tutto e dimentico di guardarti negli occhi, sbloccare i miei blocchi, alzare il volume, pensare che sì, sì, la mia ragazza è magica e lancia in aria il mondo. vestito. E eccola qua la ragazza magica, Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Ben ritrovata, è una ragazza magica, anche l'altra volta l'avevamo voluta introdurre così, con questa musica bellissima, tra l'altro di Jovanotti, questa bella canzone, perché insomma c'è qualcosa di magico, forse anche intorno alla sua figura. Lei è il sindaco, non esageriamo, lei è il sindaco diventato un po' il simbolo, diciamo, della lotta alla cementificazione, un sindaco della trasparenza, che ha fatto, diciamo, anche della legalità, della trasparenza la sua bandiera, e adesso ha avuto un riconoscimento a questo suo impegno, un premio, il premio Sterminata Bellezza, che è stato assegnato da Legambiente, Comieco e il Consiglio Nazionale degli Architetti, per avere cancellato, questa è la storia che l'ha contraddistinta fin dall'inizio del suo mandato, un progetto di espansione urbanistica in un'area agricola di San Lazzaro di Savana, siamo in provincia di Bologna, e invece avere promesso e promosso che cosa? Un sviluppo diverso, diciamo, della sua città. Sì, dunque la vicenda che insomma ci ha, per la quale siamo noi come San Lazzaro abbiamo ricevuto questo premio, diciamo, è proprio relativa alla decadenza di una pianificazione urbanistica che prevedeva questi 582 alloggi in un'area agricola di pregio. Però la cosa che per me è veramente importante è riuscire a dimostrare che un bravo amministratore non è quello che dice di no, sì, sempre, non è quello che blocca, ma è quello che è in grado di generare vita, ricchezza e sviluppo per il territorio. Beh, certo, però a volte bisogna anche forse bloccarle certe cose, no? Perché mi faccia dire una cosa, sindaco, perché così, diciamo, agli ascoltatori che magari sentendo dicono: beh, insomma, ma che merito c'è aver bloccato un progetto? Naturalmente poi ce lo spiegherà, ce lo ricorderà lei. Però ricordiamo, sì, che in Italia, statistiche, per esempio Istat, ci sono 7 milioni di alloggi invenduti. Quindi, sì, c'è sicuramente un grande tema di riqualifica dell'edilizia. Questo non vuol dire che non si possa o non si debba costruire magari su terreni dove si demolisce e poi si ricostruisce, esatto, possibilmente. Ecco. Esatto. Allora, diciamo che brevemente, sì, quella situazione, la situazione che mi sono trovata a gestire appena diventata sindaco era molto complessa, perché appunto c'era una previsione di espansione edilizia veramente molto grande, molto importante, che avrebbe, tra l'altro, che insisteva su aree che erano zona di ricarica della falda acquifera, insomma avevano delle criticità molto, molto evidenti, e il fatto di averlo bloccato ha generato chiaramente anche il malcontento di chi aveva dei diritti e di chi vantava diritti edificatori, per cui noi abbiamo attualmente in corso ricorsi per importi veramente, veramente considerevoli, ma noi abbiamo adottato un atto assolutamente legittimo e quindi siamo molto sereni, molto tranquilli. Però lei ha subito anche delle pressioni, no? A un certo, sì, punto. Diciamo che purtroppo chi ha delle aspettative, era un progetto che aveva un volume di affari di circa 300 milioni di euro, chi aveva delle aspettative in quel senso le ha viste sfumare a causa di inadempienza e contrattuale anche, sì, insomma è una cosa che va sempre ricordata, e è chiaro che ha adottato tutti i metodi relazionandosi con la pubblica amministrazione in un modo assolutamente inadeguato, assolutamente indegno. C'è anche un'inchiesta, no, su questo? Sì, c'è un'inchiesta in corso. Ecco, però quindi lasciamo perdere appunto il tema dell'inchiesta, il giudiziario, anche delle pressioni, esatto, anche se lei con coraggio è andata avanti. Ci dice però perché parlava della falda acquifera, no, per esempio, cioè un, sì, progetto di costruzione di una serie di palazzine in una zona di pregio agricolo, sì, che era un pericolo, sì, per la sua città. Perché? Guardate, ma noi abbiamo veramente bisogno di fare una valutazione complessiva, cioè nei piani regolatori, nei piani strutturali comunali di tutti i comuni, della stragrande maggioranza dei comuni d'Italia, ci sono in previsione veramente dati attualmente anacronistici, anche sconsiderati, di pianificazione urbanistica, cioè di numero di alloggi in previsione che sono incredibili. Pensate che nell'area metropolitana bolognese io ho fatto una sorta di mosaicatura insieme ai nostri tecnici per verificare quali sono le previsioni, solo nell'area della cintura bolognese dell'area metropolitana sarebbero in previsione 80.000 nuovi alloggi, voi vi rendete conto, è una cosa assolutamente irrealizzabile. Ma soprattutto il tema è proprio questo, cioè nell'era della globalizzazione non possiamo pensare che globalizzazione significhi soltanto mettere in collegamento un punto del globo con un altro con un grande rapidità, o soltanto la rapidità dei flussi finanziari e delle comunicazioni, ma globalizzazione secondo me significa anche riuscire ad avere una concezione tridimensionale dell'ambiente, dell'esistenza, e quindi non possiamo ignorare quello che c'è sotto, cioè quello che è dentro la terra, che è sotto i nostri piedi, perché quello che c'è sotto dà vita a quello che c'è sopra. Parlo ad esempio della ricarica della falda acquifera. Sì, penso ad esempio bella questa idea di quello che c'è sotto che dà vita, che è proprio quello che... Nutre quello che c'è sopra. Voi pensate che l'ultima volta che sono stati rappresentati nelle mappe i corsi dei fiumi come punti centrali, focali dei trasporti di una città, sì, è stata in epoca illuminista, nel 1797. Poi si è smesso di guardare ai fiumi come a punti vitali, ma solo come a cose da evitare per far passare delle strade o dei progetti di costruzione. Esattamente così. E guardate, invece è molto importante, perché la natura non perdona, nel senso che quando noi andiamo a impermeabilizzare dei suoli, abbiamo sotto gli occhi sempre... Certo, lo vediamo poi ogni volta che c'è un'alluvione. Però, sindaco... E poi ci sono tante contraddizioni, nel senso che lei mi parlava di tutti questi numeri di alloggi invenduti. Esatto. Però, contemporaneamente, noi abbiamo tanta gente senza casa che occupa gli immobili. Ecco, ma come si fa a promuovere questa riqualificazione di cui si parla molto, però sembra che la via più facile sia sempre quella di costruire ex novo? Allora, guarda, adesso è nato, so che si sta parlando molto con una certa forza anche della nuova legge sul consumo di suolo, e noi non possiamo prescindere dal considerare tre temi fondamentali. Il primo è appunto quello di riuscire a prevedere, come dire, un regime fiscale per gli enti locali che vanno a stralciare le potenzialità edificatorie, dei regimi agevolati, nel senso che tanti comuni hanno in piano la cessione di nuovi territori, ma questo perché chiaramente dà al comune un ritorno in termini di welfare, di risorse. E quindi lei dice, se vogliamo, non devono scaricarlo sui comuni questi costi, ma ci vogliono delle agevolazioni in modo che il comune sia facilitato non concedere il terreno per costruzioni, ma perché questa è la ragione per la quale i comuni magari usare queste agevolazioni per poi promuovere queste riqualifiche invece dell'edilizia esistente. Ce n'è molta anche nel suo comune? Abbastanza, sì, no, io poi l'altro punto è quello senz'altro di creare anche degli incentivi per le imprese che hanno il coraggio e la forza di investire nella rigenerazione urbana e nella riqualificazione, perché chiaramente è molto più oneroso, molto più faticoso andare a rigenerare e riqualificare dei tessuti degradati, già impermeabilizzati, magari desolati o desolanti, piuttosto che costruire ex novo. E questo però potrebbe generare una filiera economica importantissima. Meravigliosa, straordinaria. Infatti nelle criticità, nelle difficoltà, noi dobbiamo sempre trovare le opportunità di crescita, di miglioramento. E noi quello che stiamo cercando di fare nel nostro territorio, all'inizio vi dicevo che una brava amministrazione è quella, non è quella che dice solo no e che blocca, ma è quella che dice come. Quella che dice come si fa a rigenerare, come si fa a riqualificare. Noi nel nostro piccolo, nel nostro minuscolo ci stiamo provando e abbiamo portato a casa dei progetti davvero innovativi e straordinari. Mi diceva prima dell'intervista che uno di questi progetti prevede addirittura non soltanto di non costruire, ma di riqualificare, cioè di riconvertire a verde un'area che era cementificata. Sì, è una cosa straordinaria, devo dirvi. Io quando sono diventata sindaco mi ero data come obiettivi quelli proprio di rigenerare due aree in particolare del nostro territorio. La prima è un'area che era ex produttiva, un'ex area artigianale che nel corso degli anni si è un po' persa e ha tanti immobili, tanti stabili, anche siti invenduti, proprio capannoni produttivi. All'interno di quest'area noi come comune avevamo la sede dei vecchi magazzini comunali e della stazione ecologica, che è una cementificazione enorme con delle grandi vasche di cemento che contengono rifiuti. Noi abbiamo pensato, cosa può fare un'amministrazione per cercare di individuare un percorso diverso? Noi abbiamo messo a bando, con un bando d'asta, abbiamo messo a bando quella porzione di terreno con delle linee, con delle vocazioni ben precise, cioè verificando se c'era nel circondario bolognese, insomma, se c'erano delle imprese che avevano delle vocazioni precise, che ne avevamo contenuto all'interno del bando, cioè green, con una forte vocazione ambientale, e per vedere se c'erano effettivamente degli investimenti possibili. E li avete trovati? Ma si è aggiudicato questo bando al Cenero, che si sposta a San Lazzaro, che è un colosso del biologico, con un fondatore che ha portato avanti dei valori straordinari, e sono proprio loro che hanno interpretato le vocazioni che noi avevamo previsto in quel bando, addirittura superandole e immaginando addirittura, in un'area che è cementificata per l'80% e verde per il 20%, di fare un ribaltamento di queste percentuali, cioè alla fine loro creeranno questi grandi laboratori, ci sarà una sorta di scuola del biologico, un punto, faranno orti biologici per oltre 2000 metri quadrati, restituiranno a verde talmente tanto da invertire le proporzioni, per cui avremo il 20% di suolo impermeabilizzato e l'80% però avendo di suolo un progetto verde, che è anche di sviluppo, quindi vedete che non è che bloccando la cementificazione si blocca lo sviluppo, si può fare lo sviluppo anche invece promuovendo la riqualifica e addirittura la riconversione di alcune, voi siete proprio la dimostrazione che si può fare, sindaco, è titolo del nostro programma. No, non è che si può fare, si fa, non solo si può fare ma si fa, e questa è la cosa entusiasmante, è una sfida straordinaria. Poi abbiamo un altro progetto bellissimo dove noi abbiamo pensato di rigenerare e riqualificare un intero comparto con scuola, piscina, impianti sportivi. Abbiamo trovato, la Regione Emilia-Romagna ha dimostrato il proprio interesse, quindi finanzia questo progetto con una cifra davvero molto consistente, e noi tra l'altro siamo arrivati ad avere questo master plan, questo progetto, sì, in cui non c'è cementificazione, riusciamo a riqualificare una scuola con 500 bambini e a creare un vero e proprio campus che è all'insegna della sostenibilità, che utilizzerà la geotermia, che avrà un efficientamento energetico straordinario, perché un conto è la riqualificazione che si può effettuare su un immobile. Io riqualifico quando faccio efficientamento energetico, sistemo il tetto, magari anche solo con una mano d'intonaco, già l'immobile è riqualificato. Ma la rigenerazione urbana è qualcosa di più, è la restituzione di un intero tessuto, la creazione di vita in un intero tessuto, che comprende quindi la riqualificazione di una moltitudine di immobili, la restituzione a verde e la creazione di parchi, di percorsi ciclopedonali e del contenuto, quindi proprio la restituzione alla città e ai cittadini non soltanto di un ambiente riqualificato, e sulla bellezza ci sarebbe molto moltissimo da dire, su quello che rappresenta per il nostro paese e per l'identità del nostro popolo, ma anche un grande contenuto, un contenuto positivo di aggregazione, di cultura, di scienza, di arte. Quindi bellissimo, davvero, insomma, e meno male che voi a San Lazzaro ci state lavorando, non solo voi, anche in altre città, però sicuramente sta diventando in qualche modo un simbolo. Isabella Conti, sindaco di San Lazzaro, grazie per essere stata con noi, ma soprattutto grazie per quello che fate, perché è anche attraverso piccole scelte come quelle di un comune come il vostro che si dà senso e sostanza all'accordo, per esempio sul clima raggiunto a Parigi. Un futuro più sostenibile lo puoi realizzare soltanto anche facendo cose come quelle che fate voi. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie infinite, davvero, grazie, buon lavoro. E adesso abbiamo la pausa, poi torniamo, o li facciamo subito un paio di ascoltatori, facciamo la pausa e poi dopo torniamo con gli ascoltatori. Gioco, personaggio della settimana, nuovo indizio, tra poco. Debora, ti piacciono ancora le favole? Mi piacciono, sì, soprattutto adesso che è quasi Natale, ne stiamo scrivendo una insieme. Io, te, i nostri ascoltatori e Andrea Vitali. Eh sì, sino alla vigilia di Natale daremo vita a una grande favola collettiva. Ogni giorno, all'interno di Cuore e Denari, io darò un incipit nuovo e i nostri ascoltatori potranno completarlo scrivendo un pezzo di favola sul sito di Radio 24. Il migliore verrà poi letto in trasmissione e riceverà il nostro libro Secondo Canto di Natale. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, buongiorno di nuovo da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Andiamo con Maria che chiama da Vicenza. Maria, buongiorno. Buongiorno. Prego, su cosa interviene Maria? Ecco, no, volevo dare la risposta per il personaggio. Chi è? Il regista sorrentino che con l'ultimo film ha vinto 3 premi a un festival europeo. Assolutamente, notizia tra l'altro di, credo, di ieri, no? Sì. Quindi ci starebbe tutto, Maria, ci starebbe tutto. Anzi, questo, diciamo che era un po' anche questo un tranellone, perché è tripletta anche quella, ma non era lui il personaggio. Tra l'altro Sorrentino che abbiamo già scelto in passato come personaggio della settimana. Quindi grazie, Maria. Luigi da Venezia, cerchiamo ancora. Eccomi qua. Allora, rispondo a 2 cose, sì. Prima al personaggio e poi all'argomento collegato al personaggio. Purtroppo il personaggio per me è Maria Elena Boschi. Purtroppo. Dico purtroppo perché lei di fatto in questo momento è il nostro vero premier, così dicono le male lingue e così dice anche la cronaca di questi giorni, sì, visto che la Banca Etruria ha finanziato ancora qualcuno altro. Ma che c'entrerebbe col personaggio? Qual è la tripletta di Maria Elena Boschi? La tripletta di Maria Elena Boschi è questa: ha conquistato la notorietà, il secondo posto nella vita politica italiana e ha riconfermato la simpatia del Vaticano, perché la Banca Etruria ha finanziato anche un famoso cardinale. Ma lei è straordinario, Luigi, ha messo insieme il personaggio con tutto il tema delle banche e una tripletta, diciamo, molto originale sua. No, beh, ci sta tutta, però non era lei il personaggio, a dire la verità. E Luigi è rimasto deluso? Non aveva, ma lei lo sapeva che non era questo il personaggio? Ci ho provato. Ha cercato di mettere insieme tutto. Va bene, andiamo con Francesca da Roma, buongiorno. Proviamo ancora. Senta, allora, dunque, secondo me la Pellegrini ha vinto le 3 medaglie e ha dato pure 2 di picche alla Leopolda. Ha vinto 3 medaglie e ha dato 2 di picche alla Leopolda. Erano 3 le medaglie, ma era questa settimana? No, era un po' più... non lo so, però la Leopolda era questa settimana. Io volevo dirlo perché ero così contenta che lo sport si stacchi dalla politica e non si faccia... Anche questo è giusto. Ecco. Non era lei invece, non era lei Francesca, grazie per aver chiamato, non era la Pellegrini. Diamo un nuovo indizio? Sì. Allora, il personaggio di questa settimana è diventato papà. Attenzione, questo è un indizio, o ce l'hai o non ce l'hai, o la sai o non la sai. 800 24 00 24. Zappo la terra. Adesso parliamo di una iniziativa che anche questa è un si può fare, che ci è piaciuto subito. Intanto diamo buongiorno e buona domenica a Mauro Previdi, assessore alle politiche sociali di Rovereto. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Ho detto bene? Previdi? Sì. Previdi, c'è sempre l'accento che incombe. Senta, esatto. La notizia è questa, diciamo, i giornali hanno titolato così, poi forse c'è un po' di semplificazione. Studenti indisciplinati a zappare l'orto. Diciamo che è molto semplificativo, ecco. Sì. Perché... Però c'è del vero, ci racconti un po'? Assolutamente sì, questo è un progetto che è rivolto... a quei ragazzi che fanno fatica, come dire, di fronte all'apprendimento a comportarsi in maniera corretta, ecco. E quindi noi vorremmo creare un progetto per recuperare la loro autostima attraverso delle situazioni diverse. Sì. Ecco, attraverso, e questo, quest'idea era proprio quella di mettere a disposizione una parte del terreno del comune, 8.000 metri, per creare delle coltivazioni sia orticole sia di piccoli frutti sia di alveari con delle api, insomma. Quando dice studenti che hanno difficoltà, diciamo, a stare dentro le regole della scuola, dell'apprendimento, cosa intende in particolare? Ma intendo ragazzi magari anche un po' indisciplinati, che fanno fatica, che non hanno autostima, per cui noi dobbiamo fare recuperare a loro la coscienza di senso. Dobbiamo renderli un po' coprotagonisti in una situazione diversa da quella della scuola. Cioè quelli più agitati, quelli che magari vengono sospesi, quelli che non ce la fanno a stare fermi sul banco, quelli lì? Bravissimo. Ecco che allora, insomma, le sospensioni o le note che non hanno nessun senso e non producono nessun effetto dovrebbero essere sostituiti da questo progetto. Ma da di una più, scappatina direi... nell'orto. Però scusi, non si rischia poi che di far venire voglia di essere indisciplinati un po' a tutti, perché meglio di avere una sospensione e farsi un giro nell'orto, tutto sommato non va neanche male. Direi di no, perché insomma questo è un progetto, come dire, serio, ecco, anche perché noi vogliamo mettere insieme un discorso intergenerazionale, vogliamo affiancarli ai nonni, agli anziani, sì. Dando opportunità. Che in genere sono quelli che curano, no, questi orti, urbani, eccetera. Esattamente. Anche perché l'anziano non deve essere un problema, ma deve essere una risorsa. Ecco che allora, attraverso questo passaggio di conoscenze in questo rapporto, diciamo che creiamo delle sinergie diverse, perché ormai il rapporto tra nonni e nipoti non c'è quasi più, ecco, noi vorremmo recuperarlo, e assieme a questo vogliamo mettere dentro anche come dire, una cooperativa sociale di ragazzi disabili che già fanno lavori di orticoltura assieme a loro. Ecco che allora, in una realtà così diversificata, i ragazzi sicuramente si possono fare delle domande e possono, sì, anche... Ma io, guardi, l'ho detto scherzando prima, che si rischia, no, un effetto, diciamo, contagio, che viene voglia a molti di essere indisciplinati per andare nell'orto anziché per stare in classe. Però al di là della battuta, credo che veramente sia nel vostro progetto l'idea che stare in mezzo alla natura, stare in mezzo a un orto, certo, anche a provare un po' di forza fisica, a vedere la soddisfazione delle piante che crescono, che nascono, sia qualcosa di terapeutico, no? Che ha un potere terapeutico. Bravissimo, anche perché, voglio dire, la terra, che è terra madre, sarà madre anche per questi ragazzi. In più, i ragazzi che noi cercheremo di mettere in campo insieme alle scuole superiori sono ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Rovereto. Ecco che allora i ragazzi, vedendo anche i prodotti che poi dovranno trasformare, vederli crescere, così forse avranno motivazioni diverse. Perché diventa, pensiamo, quasi un tirocinio formativo, no? Può esatto, anche perché noi pensiamo poi dopo che dovranno occuparsi della trasformazione di questi prodotti, tipo marmellate oppure giardiniere. Addirittura potremmo anche creare un discorso di verdure, frutta a chilometro zero, perché potremmo il martedì che c'è il mercato andare a vendere questi prodotti in un posto, come dire, specifico, indicando proprio che è frutto della fatica e del lavoro di questi ragazzi. Ma siete in regola con i crediti, con le cose scolastiche del ministero, quelle cose lì? Penso di sì, che è un'esperienza comunque che già sta facendo l'Istituto Alberghiero a Pergine, in Valsugana, e credo che sia... Cioè non è che togliendo qualche ora di frequenza dall'aula, diciamo, scolastica, si esce fuori dal percorso ministeriale, no? Si può fare. Perché questo diventa poi un tirocinio formativo, insomma, ecco, quindi, che rientra in qualche modo anche nel percorso scolastico. C'è già anche l'Istituto Don Milani qua di Rovereto, una scuola professionale, che hanno già degli orti lì attorno a loro e fanno già questo tipo di percorso. Comunque noi abbiamo messo a disposizione 8.000 metri, abbiamo usato circa 150.000 euro avendo sbloccato il patto di stabilità, e quindi abbiamo pensato di investire in questa scommessa che io mi auguro vada a buon fine. Anche noi ce l'auguriamo, sì, e sì. Quando partirete magari ci risentiremo per vedere in primavera sicuramente, magari ci possiamo risentire verso aprile maggio, esatto, quando l'orto comincia... è più praticabile, comincia a essere più praticabile. Va bene, grazie Rovereto, questa era la notizia, studenti indisciplinati a zappare l'orto, e vedremo come andrà a finire. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi ti conviene. Vi presenta Si può fare, cronache da un paese migliore. Tuttavia ha dentro di sé un senso di responsabilità che non è mai venuto meno, e io mi sento la responsabilità di non abbandonare in questo momento il mio paese nelle mani di chi sarebbe un danno enorme per il paese stesso e per tutti gli italiani. Io so, scendendo in campo, di poter portare Forza Italia oltre il 20% e il centrodestra oltre il 40% vincendo le elezioni, senza che questo rappresenti per me alcuna conquista di cariche politiche. Ok, Ok, questa era una voce della settimana, diciamo Berlusconi che è tornato a rilasciare interviste, insomma a promettere che lui è ancora in campo. Claudia da Roma, buongiorno, benvenuta. Sì, buongiorno. Senta, io ho pensato ai tre cagnolini di Dudù, dato che la settimana, in realtà avevo pensato a Berlusconi, poi dopo ragionando potrebbe essere lui che ha avuto tre cuccioli, una bella tripletta in questa settimana. E in effetti è personaggio da copertina, eccolo là, ecco. È tripletta ed è diventato papà, abbiamo voluto giocare così, di leggerezza, di ironia, c'erano tanti altri personaggi. Infatti avevo pensato a Berlusconi, poi però devo essere sincera, visto che si può fare bisogna essere anche onesti intellettualmente ragionando con la vostra collaboratrice, perché io avevo detto Berlusconi e poi invece siamo arrivati a Dudù. Ed è Dudù esattamente il personaggio che avevamo scelto. Grazie Claudia per aver giocato con noi, per aver partecipato. I biglietti e il catalogo della mostra di Gauguin al MUDEC di Milano sono tuoi, e questo sì era il personaggio. Ce n'erano tanti che potevamo scegliere da copertina, però abbiamo voluto stare bassi, volare bassi questa settimana. Continuiamo a parlare di scuola perché vogliamo farvi conoscere, anche se abbiamo poco tempo, un personaggio, una piccola eccellenza italiana. Da questa mattina tenetevi forti, si studia sognando, ballando, cantando, tutti d'accordo? D'accordo! Tutti d'accordo? D'accordo! E via tutti i freni ai mille pensieri, i sogni di oggi non mandarli a domani, tutti d'accordo? D'accordo! Tutti d'accordo? Ci piace perché parla con il cuore, ci piace perché è buono come il pane, ci E allora, buongiorno Barbara Riccardi, insegnante dell'Istituto Comprensivo Frignani di Spinaceto, candidata al Global Teacher Prize. Buongiorno a tutti. Eccola qua Barbara, ha riconosciuto questa musica, questa è la sigla di questo... Ringrazio infatti per questa, caro maestro, questa bellissima introduzione, no, non la conosco e la voglio sicuramente usare a scuola. Era un programma, a dire la verità nemmeno io l'ho visto molto questo programma in TV con Marco Columbro che era un maestro, e insomma però ha segnato così una generazione di spettatori legati così all'idea della scuola, al mondo della scuola. Allora Barbara, i giornali hanno scritto anche in questo caso l'italiana al Nobel dei prof, se vinco aggiusto gli infissi delle aule, perché a questo premio si vince €1 milione, chi vince? Sembrerebbe di sì. Intanto diciamo che lei è candidata tra i 50 finalisti su 8.000 insegnanti nel mondo. Questo risulta dai dati delle iscrizioni, delle nomine che ci sono state. Complimenti, ma lei lo sapeva di essere stata selezionata? Cioè l'hanno chiamata, le hanno chiesto qualcosa? Com'è che è entrata in questa... Sinceramente tutta la trafila non la so. La cosa è stata veramente inaspettata, tant'è vero che quando è arrivata le mail io neanche l'avevo letta. Cioè l'aveva messa nello spam così? Più o meno. Invece... Più o meno, e poi continuavano a mandarmi mail, alla fine mi è arrivata una telefonata e lì devo dire lo stupore è stato estremo. Devo fare un appunto che lo so, gli infissi che non è vero che lei vuole, perché gli infissi della sua scuola vanno benissimo. Esatto, e anche il registro online ormai è in regime da 4 anni, quindi il registro online. Però devo se dovesse che... vincere questo €1 milione, veramente cosa ci farebbe? Io trovo che sia fondamentale e importante creare dei percorsi di formazione per tutte quelle persone che ruotano intorno al mondo della scuola e che fanno cultura, quindi dalla scuola alla famiglia, e creare quindi dei luoghi polivalenti dove potersi incontrare e mettere in campo ognuno le proprie abilità, come dice appunto la... Ma la vittoria eventuale vincola che questi soldi debbano essere spesi per la scuola o sono per lei? Eventualmente. Io questa cosa non l'ho seguita molto, perché devo dire che non... Non l'ha presa troppo sul serio, vedete com'è modesta. No, non troppo, sul serio, no, cioè se penso alla fine, devo superare ancora le semifinali. Giusto. E chi sono i concorrenti più agguerriti? Da quali paesi vengono gli altri insegnanti? Tutti i paesi del mondo, immagino. Tutti i paesi del mondo. Devo dire che c'è una grande percentuale dall'India. Noi italiani siamo stati un po', come dire, di meno, una percentuale inferiore rispetto agli altri. Ma lei è l'unica italiana America. Tra questi 50? È l'unica italiana? Sì, esatto, questa è una responsabilità. Ecco perché ha avuto i titoli dei giornali. Barbara, noi dobbiamo chiudere. Barbara Riccardi, grazie, insegnante doc, ma magari torneremo a parlare con lei per conoscerla meglio e capire perché è stata selezionata tra gli insegnanti che gareggiano per il Global Teach Prize. Ciao a tutti, grazie a Lorenzo Nespoli in assistenza in diretta oggi, Andrea Piana, autore insieme a me del programma, e poi Peter Bescapè.